La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Vola. Vola. Vola, vola, vola verso il podio. Vola verso il podio, Yuri Chechi, vola. Ce l'hai fatta, Yuri. Yuri, ce l'hai fatta. Yuri, ce l'ha fatta. Questo è un esercizio perfetto, perfetto, perfetto. È perfetto, è un esercizio da oro. È un esercizio da oro. Ecco la parte interessante, ecco la parte finale. 9,837. È medaglia d'oro, è medaglia d'oro, è medaglia d'oro, è oro, 9,887. È la fine veramente di un inseguimento durato troppo tempo, 4 anni. È la medaglia d'oro più bella di queste Olimpiadi per l'Italia, perché è costruita con emozione, con pazienza, con tenacia, con volontà, con grinta. E c'è tutto Yuri Chechi in queste emozioni. È il 1996. Yuri Chechi, il ragazzo di Prato, l'atleta amato per la sua grinta, il suo talento e il suo rigore, vince una medaglia d'oro stupenda, con un'esecuzione impeccabile e un'emozione che arriva anche attraverso lo schermo. Yuri è un campione unico, totale, che travolge in un modo inspiegabile. Ad Atlanta nel 96 vince l'oro, ma il pubblico si emozionerà ancora di più quando nel 2004 tornerà ad esibirsi, dopo essersi ritirato a causa di diversi infortuni. Gareggerà per il padre malato. «Tu guarirai se io andrò alle Olimpiadi», dirà al padre, e la promessa verrà mantenuta. 9,812, incredibile! È medaglia di bronzo per Chechi! 9,812! È incredibile, 9,812, non avremmo scommesso sulla medaglia di Yuri Chechi, a quasi 35 anni fa il miracolo, è medaglia di bronzo, 9,812, dopo quello che avevamo visto, dopo la giuria che era sembrata piuttosto favorevole al greco. Yuri vincerà la medaglia di bronzo tra le lacrime di molti italiani che ancora oggi lo ricordano come il campione di sempre. È stato un percorso molto importante, molto, molto lungo, molto impegnativo, ma chiaramente meraviglioso, e è difficile davvero a parole riuscire a in qualche modo a far capire, a esprimere quello che ho provato nel momento in cui, diciamo, ho capito di aver curato un sogno di un bambino che a 9 anni, mi ricordo, o in terza o in quarto elementare, quando mi diedero il compito cosa devo fare da grande. A differenza dei miei amici che scrivevo, alcuni scrissero il pompiere, l'astronauta, insomma le cose normali, io scrissi da grande voglio fare il campione olimpico, avevo quindi molto chiare, quindi è stato un momento importante perché lì mi sono sentito un atleta, un uomo appagato, e quindi sono sensazioni belle che si ricordano sempre con grande piacere. Ma perché da piccolo a 9 anni si è messa in testa questa idea? Cioè da cosa è nata questa voglia di partecipare alle Olimpiadi e di vincerle anche? Evidentemente non ero un bambino molto normale, c'era già all'epoca qualcosa che non andava, diciamo. No, ma è perché ho avuto la possibilità di attraverso i miei genitori di far sì che lo sport potesse essere una opportunità di crescita, di formazione, di imparare valori e situazioni che poi, insomma, anche nella vita vengono in qualche modo poi riproposti. E quindi ho iniziato con lo sport e ho avuto la fortuna di innamorarmi follemente di uno sport come la ginnastica, in maniera casuale, perché andava mia sorella in palestra, io l'ho seguita un giorno e mi sono innamorato di questo sport e ho chiesto a mia madre di farlo. Io ho iniziato con sport molto diversi, come il ciclismo, il pugilato, sport molto maschili, no? Perché mio padre è appassionato di questi sport. E quando gli dissi voglio fare ginnastica, dissi ma caspita, è uno sport da donne. E invece no, poi ha capito che è uno sport, anzi, anche questo molto molto importante, molto molto difficile, e che i maschi lo fanno come protagonisti, insomma, anche insieme alle donne, chiaro. Ma che famiglia era la sua d'origine? Perché, per esempio, una cosa che mi è piaciuta molto è anche scoprire l'origine del suo nome Yuri. Cioè, quindi... Sì, quello sì, è una famiglia, siamo... toscani, quindi da toscanacci molto molto allegri, una famiglia molto anche caciarona, per modo di dire, però una famiglia, ripeto, che mi ha dato dei valori che ritengo importanti, e quindi c'era il momento di allegria, ma c'era anche il momento di serietà, e questo lo sport me l'ha imposto anche. Quindi una famiglia però bella, piacevole, e io, una delle scelte forse più difficili di tutta la mia carriera sportiva è stata proprio quella che all'età di 14 anni, proprio perché a Prato, dove ho iniziato l'attività sportiva, non c'era una struttura idonea per coronare quel sogno che ti dicevo prima. Mi sono dovuto trasferire in una città lontana, Varese. All'epoca i trasferimenti erano un pochino più complicati e il distacco da una famiglia molto molto aperta, molto gioiosa, insomma, in una città bella ma chiusa, con caratteristiche molto diverse da quelle che ero abituato, è stata una scelta molto difficile da affrontare, ma faceva parte di quel percorso che sapevo di dover percorrere per raggiungere l'obiettivo che mi ero prefissato. Perché era piccolo, 15 anni, da solo, senza la mamma e il papà, diciamo, proprio con l'allenatore e la squadra, però sempre da solo, cioè, quindi restava lì per quanto tempo? Piccolo intendevi d'età, vero? Sì. Perché non mi permetterei. No, scherzo, no, ero piccolo davvero, vero, sai, io adesso ho due bimbi, uno di 11 e uno di 9. Se un giorno, come ho fatto io, insomma, durante una cena tranquilla a casa mi dicessero io voglio andare via di casa perché voglio diventare il miglior ginnasta del mondo, a 13 anni e mezzo non so se avrei il coraggio che hanno avuto i miei genitori, insomma, a dire sì, va bene, provaci, perché è un'età molto particolare, molto complicata, quindi sì, è stata una scelta però che per fortuna i miei genitori mi hanno dato questa fiducia, ecco, è stata molto importante. Senta, lei ha parlato dei suoi figli e i suoi due figli hanno due nomi russi come il suo, Dimitri e Anastasia. Sì. Li ha scelti lei? Sì, sì. Anche perché il mio secondo nome è Dimitri, ma non ho nomi russi particolari. No? Forse non ti ho risposto alla domanda precedente, ti chiedo scusa, ma no. Yuri viene proprio da probabilmente perché era Yuri Gagarin, all'epoca se ne parlava di questo astronauta che circumnavigò la Luna, quindi ecco, il nome gli piaceva ai miei genitori e mi hanno dato il nome Yuri. Poi io sono andato molto molto in Russia, quindi parlo anche un po' russo perché mi piace le lingue, parlo anche altre lingue, ma proprio perché ho questa passione, ma e mi piacciono i nomi russi, quindi Dimitri Anastasia proprio per una questione di piacere, ma non ho tradizioni o cose particolari, diciamo, per le quali sono vicino al mondo e alla cultura russa, quindi è proprio una questione di piacere. La prima volta. È il 1969. In Italia i movimenti di protesta studenteschi si sono trasferiti nelle fabbriche. La classe operaia è in strada. Sulla Luna il primo uomo. Ha toccato il suolo lunare. No, non ha toccato. Signori, sono le 22:17 in Italia, sono le 15:17 a Houston, sono le 14:17 a New York. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. Questo è frutto dell'intelligenza, del lavoro, della preparazione scientifica, è frutto della fede dell'uomo. Anche a casa Checchi questi sono anni sentiti con forza. Yuri nasce nel 69 e nel giro di pochi anni diverrà un atleta su cui tantissimi italiani riporranno la fiducia. Una fiducia mai disattesa, anche e soprattutto per quanto riguarda l'etica. È più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca. Ricordatelo. Lei è sempre stato un atleta nitido, cioè molto forte anche in questa sua pulizia, come dire, no? E questo quanto l'ha favorita e quanto invece non l'ha favorita? No, mi ha favorita e basta. Io sono sempre stato e tuttora convinto che che è molto meglio una sconfitta pulita che una vittoria sporca, nel senso che nello sport, ma soprattutto nello sport, ma anche nella vita, si deve arrivare a raggiungere i propri obiettivi, le proprie forze, perché ci sono dentro di noi le caratteristiche, le forze per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. E non va bene, insomma, girare le regole, cercare scorciatoie, non rispettare appunto le regole del gioco. Per me non mi è neanche mai passato per la testa, ma non lo dico perché sono un moralista o un'etica, perché così, se no salterebbero tutti gli schemi più banali, più basilari, insomma, no? E quindi è stato molto semplice per me andare avanti con questa filosofia e tuttora la porto avanti. Ecco, quindi diciamo anche questa eticità, questa anche una parte di moralità che spesso ancora mi viene riconosciuta, mi fa molto piacere, ma fa parte del mio carattere. Tra l'altro la frase che ha appena detto è una frase che è stata anche ripresa dal Papa. Com'è stato per lei? Fichissimo, si può dire fichissimo? Sì, si può dire. No, ma è stata un'emozione unica, perché indipendentemente dalla risonanza o meno a quel mondo, è stato davvero molto bello conoscere il Papa Francesco, e mi ricordo in questo incontro con gli studenti ho fatto un intervento a braccio, ma veramente, e non è facile perché parlare davanti al Papa, 300.000 persone a braccio, quando dico, vabbè, di qualcosa, vabbè, dirò qualcosa, però in maniera molto naturale ho detto una frase, e poi il Papa, salutandomi, mi ha ringraziato per la frase e l'ha fatta ripetere anche la platea, quindi questo mi ha fatto molto piacere, chiaramente. Quella di Jurij Kechi è la storia di un grandissimo atleta che non ha mai smesso di mettersi in gioco, ancora oggi che non gareggia più. Ma dipende molto anche dalla situazione, con chi, quali con i ragazzi che parli, però ecco, con i ragazzi con i quali parli. Però credo che in questo momento ci sia bisogno davvero anche di dare delle motivazioni forti a queste persone, a questi ragazzi, no? Nel senso che io, per esempio, in questo momento sto facendo uno stage di ragazzi di multisportivo, ginnastica e altri sport, proprio perché credo, come dicevo prima, nel valore formativo dello sport. È una grande opportunità, ma si deve fare con una grande passione. Mi sembra che questi ragazzi abbiano un po' perso il piacere, la passione, quasi l'amore e anche la fame, no? di raggiungere e di perseguire un obiettivo. E dipende solo da noi, perché uno dice, ma io non so cosa fare. Non è che se stai fermo aspetti che ti arrivi qualcosa, devi anche cercarlo, devi anche provare, devi anche avere curiosità, devi provare più cose, perché poi alla fine trovi quella cosa che ti dà passione e che ti aiuta poi a vivere una vita, secondo me, migliore. Però dipende da noi, dipende da loro, dai ragazzi, che devono essere i protagonisti della loro vita. Ecco, mi sembra che si stia un po' perdendo questo, sono un po' lì che aspettano che arrivi qualcosa invece di andare a cercarlo. Io cerco, nel limite del possibile, di stimolarli invece di essere loro i protagonisti della loro avventura. Lei è molto impegnato anche nel sociale, infatti questa intervista viene fatta anche perché mi è stato dato il contatto dalla Fondazione Mayer. Ecco, lei sta sostenendo proprio un programma per la ricerca scientifica dell'ospedale Mayer, fa diverse azioni di questo genere. In questo senso, appunto, come è arrivato a scegliere il Mayer? Perché conosco abbastanza bene quello che fanno, sono stato alcune volte anche nell'ospedale e nel reparto, chiaramente, pediatrico. È una cosa che ogni tanto si dovrebbe fare per capire poi in fondo quanto siamo fortunati, no? E quanto invece poi ci si debba anche accontentare di quello che si ha. E soprattutto loro fanno delle operazioni molto belle, e questo progetto, secondo me, è bello, è fondamentale, perché si occupa di ricerca. E la ricerca è il futuro per cercare di migliorare le condizioni di vita dei bambini malati. E quindi tutta l'attività che può essere svolta, soprattutto in Italia, che sempre di più la ricerca viene messa in secondo piano, secondo me dobbiamo aiutare a farlo. Quel poco che posso fare io lo faccio. Mi occupo anche di altre situazioni, altre associazioni per bambini, e molte volte lo faccio, lo dico forse con un pizzico di egoismo, certe volte più per me che per loro, perché quando provi a fare qualcosa di buono per gli altri, soprattutto per i bambini, poi alla fine ti senti anche meglio, e quindi ecco, forse in maniera egoistica dico che lo faccio anche un po' per me. È un bravo papà lei, perché è un po' un papà aperto anche ad altri figli, diciamo, i figli degli altri, che è un po' la regola secondo me per capire se uno è un bravo genitore o no. Sì, può essere questa, però io ho avuto questi i bambini e con la mia compagna non ero pronto, veramente, lo dico con grande onestà, non perché sapevo che mi cambiava la vita, ma non sapevo che mi cambiava in meglio, e quindi è stato un grande regalo e cerco di fare il papà nel modo migliore possibile, sapendo che farò degli errori, ma cerco di imparare, di farlo appunto nel modo migliore possibile, ma con la consapevolezza che secondo me con l'amore già si parte da una buona base, no? Per cercare di essere un buon papà. Io ho capito cos'è l'amore da quando Dimitri Anastasia, insomma. Ma lei diceva che non era preparato, si è spaventato quando ha saputo che stava per nascere. Io ho ricordo esatto, preciso, della telefonata di Rosella, della mia compagna, proprio nel momento in cui, cioè, mi dice sono incinta, proprio boom. È un grande classico, ma, direi, no? Ma io sono un uomo normalissimo, sono proprio l'uomo, il classico, capito, uomo che vive le emozioni dell'uomo medio, diciamo, quindi è arrivata questa botta. Ah. La prima volta termina qui. Se volete seguirci online abbiamo una pagina Facebook, digitate La prima volta tutto attaccato. Il nostro indirizzo email è laprimavolta@radio24.it. Ringrazio in regia Gianmarco Ferronato, noi ci risentiamo sempre alle 13.30, sempre di domenica, come dice il buon Daniele Silvestri. Un caro saluto da Cristina Carpinelli. Sempre di domenica. Adesso basta, tu sei un egoista, tu un maschilista, tu dei miei nemici, tu sei il primo della lista, tu sei un qualunquista, tu un casinista, di più, sei pessimista e menefreghista, esibizionista, tu se parli ancora giuro chiamo un esorcista che mi suggerisca la parola giusta.